Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Il fondo della bottiglia di Georges Simenon, traduzione di Francesca Scala. In macchina, i due uomini tacevano. Ancora qualche minuto e poi Donald avrebbe sentito la voce di Mildred e dei figli. In fondo non c'era da stupirsi se si raccoglieva come un cristiano prima della comunione. Superata una curva, la strada smetteva di essere comune a più ranch. C'erano due pali, un cancello bianco sempre aperto con delle traversine, raso terra, che impedivano al bestiame di passare. Su uno stemma era incisa in lettere dorate la scritta MM Ranch. L'unico rumore fino a quel momento era stato quello delle ruote che facevano schizzare l'acqua delle pozzanghere. Inaspettatamente fu Donald a rompere il silenzio, come se quella domanda potesse avere per lui una qualche importanza in un frangente del genere. Chiese: è di Nora? Fisso sullo stemma, precisava il senso delle sue parole. Poi quello stesso sguardo si posò sulla distesa di terre e sulle montagne tutto intorno. Sì, è di Nora. L'ha ereditato dal primo marito? Anziché rispondere, PM alzò le spalle e il fratello non insisté. Poco dopo entrarono insieme nella casa vuota. Una notte e un giorno di diluvio erano bastati a cambiarne l'atmosfera, l'odore e in un certo senso anche il sapore. Le stanze si erano impregnate di un'umidità fredda a cui non si era abituati. Nella veranda l'acqua colava lungo i muri, formando dei rigagnoli per terra. I cuscini sui divanetti da giardino si erano inzuppati. Il telefono era in bella vista nel living room, ma nella camera di Nora c'era un altro apparecchio, come pure in quella di PM e in cucina. Vuoi telefonare da qui? Non mi importa. Sappi che le operatrici, soprattutto di domenica pomeriggio, quando hanno poco da fare, possono mettersi ad ascoltare le comunicazioni per pura curiosità. Non mi importa. Importa a me, controbatte PM. Il mio ufficio è a Nogales, a due passi dalla Bell Telephone, e poi io, a differenza di te, qui ci vivo, lo capisci? Con uno stupore quasi offensivo, Donald buttò lì: non parlerò di te. Vuoi che chiami io? Lo faccio sempre. Fra un attimo. Già da un po', più o meno da quando erano usciti da casa dei Noland, era chiaro che aveva qualcosa in testa. E ora PM lo vide dirigersi risoluto verso il mobiletto dei liquori. Donald lo aprì, come se fosse a casa sua, prese la prima bottiglia di whisky che gli capitò a tiro e lanciò un'occhiata al fratello. Era uno sguardo fermo che diceva senza mezzi termini: puoi fare quello che vuoi, ma non riuscirai a impedirmi di bere. Stava per attaccarsi al collo della bottiglia, ma si fermò in tempo. Sapeva benissimo dove trovare i bicchieri dal momento che la mattina aveva lavato i piatti con Nora. Si versò quello che in un bar sarebbe stato l'equivalente di un doppio bourbon abbondante, lo beve quasi d'un fiato, con una smorfia di disgusto. Adesso puoi chiamare Nogales 103. La stanza era in penombra come al crepuscolo, i colori erano spenti, persino i rami erano opachi, senza riflessi. Pronto, Nogales? Qui è Tumacacori 5. Buonasera, signorina. Mi passerebbe Nogales 103? Sonora? Donald era in piedi accanto a lui e, sebbene non muovesse un muscolo, era così visibilmente teso che alla fine PM fu contagiato dal suo nervosismo. Eppure non c'era niente di più semplice. Mildred sarebbe venuta al telefono e suo marito avrebbe finalmente parlato con lei. Pronto? All'altro capo del filo, una voce spagnola. Come tutti gli abitanti della valle, PM aveva imparato a parlare passabilmente quella lingua. «Potrebbe per favore chiamare la signora americana che alloggia da lei?» PM era quasi in ansia all'idea che il numero potesse essere sbagliato e che potessero non riuscire a mettersi in contatto con Mildred. Donald gli stava sempre accanto, diritto e rigido, ma a fior di pelle gli correvano dei fremiti impercettibili, quasi sentisse che Mildred si stava avvicinando. Non appena nel ricevitore risuonò una voce diversa, tese la mano e PM gli passò la cornetta. «Sei tu?» La voce doveva aver pronunciato le stesse parole, che furono seguite da un silenzio, un lungo silenzio. PM si allontanò a passi felpati, chiedendo per scrupolo: «Preferisci che esca?» Come unica risposta ottenne un'alzata di spalle indifferente. Donald non si era neppure preso la briga di sedersi. Era rimasto lì, impalato, accanto al tavolino, con il filo che gli pendeva dalla mano. «Come stai?» Cercava con gli occhi il bicchiere ormai vuoto e forse fu perfino tentato di chiedere al fratello di riempirglielo. «I bambini? No, adesso no, aspetta un attimo. Prima raccontami.» Senza mollare la cornetta, che reggeva fra la guancia e la spalla, trovò il modo di accendersi una sigaretta. Non interrompeva mai la moglie, che parlava a ruota libera, forse dilungandosi più del necessario, perché voleva dire tutto, spiegare, raccontare di getto, senza tralasciare nessun dettaglio. Passarono parecchi minuti, durante i quali Donald non smise di serrare i denti, senza guardare neanche una volta in direzione del fratello. Quando toccò a lui parlare, disse, e si capiva che stava soppesando ogni singola parola: «Senti, lo sai dove sono? Da chi sono?» Mildred evidentemente gli obiettò qualcosa, perché lui rispose in tono secco: «Dovrà farlo per forza. In questo momento, però, sembra che non si possa attraversare il fiume. Io una maniera la troverei pure, ma poi dall'altra parte ho bisogno di lui. Potrebbero volerci giorni. Aspetta. Per quanto riguarda te, i bambini, in qualche modo mi arrangerò. Dimmi soltanto il nome dell'affittacamere. Come? Espinosa?» Con lo sguardo chiese a PM, in realtà gli ordinò, di prendere nota del nome, che ripeté: «Espinosa? Sì? Case Victoria del Sarto? Sato? Soto? D'accordo. Numero 41. E intanto controllava che suo fratello scrivesse tutto per bene. «Sì, adesso puoi passarmelo. Pronto? Frank!» Gli si illuminò il viso. Il pomo d'Adamo si sollevava e, vedendo che gli si illuminivano gli occhi, PM si voltò dall'altra parte. «Sì, figliolo. Sì, solo 19 miglia da qui, al confine. Ma sì, ci vorrebbe meno di mezz'ora. No, è davvero impossibile. Persino per te, sì. Come? Non devi farlo mai più. Non è come da questa parte, sai? Pronto? Sì, si aggiusterà tutto, sì. Ancora non lo so. Forse molto lontano. Ma sì, certo che potrai.» Guardò un'altra volta il bicchiere come per aggrapparsi a una realtà materiale e PM a malincuore andò a versargli da bere. «No, figliolo, nessuno, capisci? Niente al mondo potrebbe impedirmelo. Sì, passamela. Pronto? Annie! Come? Non volevano farti parlare? Ma sì, certo, aspetta anche a te.» Era di nuovo immobile, con lo sguardo fisso, i denti stretti e la sigaretta che si consumava fra le dita della mano destra. «Dimmi.» «Sì, sì, sì, tuo fratello ti spiegherà tutto.» Non fu difficile indovinare la domanda quando, dopo aver lanciato un'occhiata furtiva a PM, rispose: «No, non credo che mi assomigli. Pronto? Come? Anche lui scalpita. Passamelo un momento. È un telefono a muro? John non ci arriva? Sollevalo. Oppure dia a mami di prenderlo in braccio. Pronto? Ciao, Ometto, mi senti? Ma sì, sono Daddy. Sì, promesso. Ti porterò un giocattolo bellissimo.» Ad un tratto si sedette e sembrò che stesse per lasciar cadere il telefono, come se fosse diventato troppo pesante o come se all'improvviso scottasse. «Dai, fammi parlare ancora un attimo con mammi. Mildred? Scusami, io...» deglutì a fatica. «Sì, sì, presto, sì. È finita.» Forse non si riferiva solo alla telefonata, ma alla lunga strada che avevano percorso tutti quanti, un po' a casaccio, e che, come per ironia, terminava di nuovo contro un'inferriata. Si era dimenticato di riagganciare e si sentiva la voce della telefonista che ripeteva: «Ha finito? Pronto? Tumakakori? Ha finito?» PM gli prese la cornetta di mano e la rimise a posto. «Dammi da bere!» E siccome il fratello esitava, sussurrò in tono quasi leggero: «Immagino che tu non creda alla storia che hai raccontato alle tue amiche.» Aveva bisogno di parlare di qualcos'altro, di non pensare a Mildred e alla famiglia. «Quale storia?» «Non lo so esattamente, ma pensi che non abbia notato quanto erano agitate tutte quante? Facevano a gara per allontanarmi dal vassoio degli alcolici, per versarmi Coca-Cola. Una di loro, una piccoletta bruna, la signora Pope, non ne ho idea, non mi ricordo il nome, mi ha confidato di punto in bianco che un suo cugino era stato rinchiuso per 5 anni in un ospedale psichiatrico, pur essendo perfettamente normale, e che alla fine i medici avevano riconosciuto l'errore.» Prese a fissarlo con insistenza e scandì: «Tu lo sai che non sono mai stato pazzo, PM. Lo sai, vero?» La domanda celava una minaccia. «E adesso?» Si alzò di colpo, parve riscuotersi e scrollarsi di dosso ogni residuo di commozione. Si servì da bere da solo, sfrontatamente, senza lesinare, e andò in cucina a prendere del ghiaccio. «Ne vuoi?» Un goccio. Ora che era uscito dall'immobilità, non era più lo stesso. «Non sono mai stato pazzo, ma è vero che ho sparato a uno. Hanno pensato che fossi ubriaco, e magari lo ero. Eppure lo rifarei, a mente lucida. Anzi, mi dispiace di non averlo accoppato.» «Il poliziotto?» «Sì, perché lo conoscevo e lui conosceva me, e perché mi provocava da un pezzo. Ma è una lunga storia che non ti riguarda.» Si piazzò davanti al fratello con un'altra sigaretta fra le labbra. «Ascoltami, Pat. Hai sentito quello che ho detto a mio figlio? Fra loro e me ci sono esattamente 19 miglia. L'ho letto su un cartello stradale quando sono sceso dall'auto. Solo una mezz'ora di macchina. A questa storia del fiume sono disposto a credere. L'hai visto anche tu? Lasciamo stare, ti credo. C'è un'altra cosa che gli ho detto e che hai sentito. Niente al mondo potrà impedirmi di raggiungerli. Niente e nessuno, capisci? Farò tutto quello che sarà necessario. Ascoltami bene e ricordatelo. Tutto quello che sarà necessario per mantenere la promessa. E se incontrerò un ostacolo, qualunque ostacolo, io...» Terminò il concetto con un gesto secco. «Ci tenevo a dirtelo in privato, ma non ti chiedo di farmi lunghi discorsi o promesse. Penso di conoscerti abbastanza bene, ed Emily ti conosce ancora meglio di me. Che cosa ti ha detto? Non sono affari tuoi.» Mentre parlava, andava su e giù per la stanza. Di tanto in tanto beveva un sorso di whisky o dava un tiro alla sigaretta. «Hai degli investimenti oltre confine? Cioè, lo vedi? Ridiventi sfuggente. Ti prego di rispondere, sì o no?» «Dipende da cosa intendi per investimenti. Soldi, se preferisci, o la possibilità di farne versare un po' a qualcuno.» Non c'era modo di sottrarsi a quello sguardo duro e febbrile. «Non è facile, ma bene, lo farai. Adesso ti spiego come stanno le cose. Emily non è ricca. Ha speso una buona parte dei suoi risparmi per aiutarmi a evadere. Il resto lo ha dato a Mildred per il viaggio, ma non era granché. Mildred non ha soldi? Peggio, non ha di che pagare la stanza. Ha lavorato 2 giorni come cameriera in un bar. Un bar messicano? Sì, ma ho dovuto andarsene. E posso immaginare il perché. Aspetta. e non credere che stia cercando di impietosirti. Tu non conosci Frank. Ha 15 anni. Si è voluto mettere a lavorare anche lui. Se ho ben capito, è quasi impossibile oltre confine. I messicani sono poveri. Per guadagnarsi da vivere, quelli di Nogales sono costretti a cercare un impiego nella parte americana della città. È così? Anche noi nei ranch assumiamo solo messicani. Ma per attraversare il confine, mattina e sera, bisogna avere un permesso. E Mildred non può richiederlo perché dovrebbe dare il suo vero nome, con il rischio di allertare la polizia. E finché non sarò passato, capisco. Era un sollievo poter parlare di questioni in un certo senso tecniche. Frank si era messo a lucidare le scarpe per strada, ma i ragazzini del posto a cui faceva concorrenza lo hanno pestato. Entro domattina bisogna mandargli dei soldi, altrimenti l'affittacamere li sbatterà fuori. Ma cosa stai pensando? Ma come fare? È tanto difficile. Sei calmo? Calmissimo. Allora smettila per un attimo di bere e ascoltami. Sei arrivato qui quando meno me lo aspettavo, pretendendo, è la parola giusta, che ti facessi passare il confine. Non ti sei preoccupato di sapere se correvo dei rischi o meno. Non ti sei chiesto se la tua semplice presenza potesse gettarmi addosso una vera e propria catastrofe. Nora, ad esempio, avrebbe potuto sospettare la verità. Ho capito. No, non hai capito un bel niente. Se avessi capito, non avresti quell'aria di minaccia. Per quanto riguarda il confine, farò tutto quello che posso perché tu riesca ad attraversarlo. Lo attraverserò. D'accordo. Per il denaro te ne darò abbastanza perché tu abbia il tempo di cavarti d'impiccio. Grazie. Il tono con cui Donald pronunciò quella parola era un condensato di ironia. Ora me ne stai chiedendo per tua moglie. Adesso, subito, prima di domattina. La mia risposta è: ci provo. Perché è più complicato di quanto tu possa immaginare. Nora ha degli investimenti in Messico, delle quote in un ranch del Sonora, se proprio vuoi saperlo. Ma sono solo quote. Non dirige lei l'azienda. Non posso telefonare all'amministratore che vive in montagna a 50 miglia da Nogales e chiedergli di portare dei soldi a quell'indirizzo, lo capisci? Anch'io ho dei soldi in banca oltre confine. Ma finché il fiume è in piena, non posso mandare assegni a nessuno. Fra l'altro, preferirei non lasciare tracce. Che significa? Significa soltanto che bisogna considerare la questione con calma. Mi dispiace per Mildred e per i tuoi figli. Di nuovo grazie. Sono convinto che da qui a stasera riuscirò a trovare il modo di aiutarli. Sei convinto? Ma certo, caro Donald. Forse era perché aveva avuto paura o perché in fondo ne aveva ancora, che assumeva ad un tratto quell'atteggiamento disinvolto, quasi condiscendente. Ma sì, ci proverò. E guarda che se a trovarsi in questa situazione fosse mia moglie, non potrei fare niente di più. Intendi Nora o Peggy? Nonostante la rabbia, PM rispose: Nora. Permettimi di farti una domanda su di lei, anzi più di una. Già che ci siamo, no? Aveva un'aria canzonatoria, stava diventando aggressivo. PM avrebbe voluto impedirgli di bere, ma ormai era impossibile, e Donald fissava con accanimento la bottiglia che aveva posato vicino a sé. Quanti anni aveva Nora quando si è sposata la prima volta? Con precisione non lo so, più o meno 22. E suo marito? Macmillan ne avrà avuti 55. Era ricca? Veniva da una buona famiglia, ma non era molto ricca. Matrimonio d'amore? PM disse in tono secco: non ne ho idea. Va bene, andiamo avanti. Suo marito è morto e lei ha sposato te. Matrimonio d'amore? Immagino che siano affari suoi. Come vuoi. E da parte tua? Sono affari miei. Capisco. Stavolta PM sentì la rabbia montargli alla testa e diventò anche lui aggressivo. Che vorresti dire? Niente, non te la prendere. È la prima volta da tanto tempo che parliamo come due fratelli, no? Hai bevuto, anche tu. Ti osservo da quando sono entrato in questa casa e ho notato che bevi quanto e forse più di me. E adesso la domanda più importante. Immagina, domani, di perdere la reputazione. Immagina che si scopra che sei invischiato in qualche storia losca, come capita a volte agli avvocati o ai mariti delle donne troppo ricche. Immagina che la polizia venga e ti arresti, che ti sbattano in galera. Dove vuoi arrivare? Cosa farebbe Nora? PM capì e preferì distogliere lo sguardo. Allora la voce di Donald si fece più affannosa. Immagina di essere stato per tutta la vita un farabutto. Ah, non chissà che farabutto. Diciamo piuttosto un poco di buono, ecco. Nel vostro ambiente non capita spesso. Voi fate subito le cose in grande. Uno metti che non sa resistere se viene trascinato. Uno che segue gli amici al bar e che una volta lì si dimentica di avere moglie e figli che lo aspettano a casa e che per mangiare hanno bisogno dei soldi che lui sta scialacquando in bevute. Prova a immaginartelo. Avrebbe potuto succedere a te. No. A me invece è successo. E mi è successo anche di considerare assolutamente normale che Mildred si sfiancasse per tirar su i bambini come si deve, nonostante tutto. E ho perso anche il lavoro senza volermi rendere conto che la colpa era mia. Lo so, lo sai? Tu non sei un bel niente. Forse conosci la teoria, ma in pratica non sei capace di metterti nei panni degli altri. Anche questo te l'ha detto Emily. Può darsi. Sei venuto qui per insultarmi? Non ho nessuna intenzione di insultarti e mi dispiace se la verità ti ferisce. Ma è meglio se inizi a capire. È più prudente. Poco importa se ho fatto una sciocchezza. Ormai l'ho fatta e in tutta coscienza ritengo di aver pagato abbastanza. Adesso devo occuparmi dei miei doveri verso Mildred e i bambini, perché vedi, Mildred, quando è venuta a trovarmi in prigione, non mi ha rimproverato neppure una volta e non ha neanche pensato di chiedere aiuto a te o a qualcun altro. Ha semplicemente aspettato. Eppure sapeva di dover aspettare 20 anni. Lo capisci? Ebbene, quella stessa Mildred è a 19 miglia da qui. 19, Pat! Non mi ha voluto dire tutti i mestieri che ha fatto negli ultimi 2 anni. Persino Emily si è rifiutata di parlarmene. So che ieri lavorava come cameriera in un bar messicano mentre mio figlio lucidava le scarpe per strada, e so che domani li metteranno alla porta. Per colpa mia! Allora Donald si eresse in tutta la sua imponenza e sbottò. Può darsi! Per quanto assurdo fosse, Donald era stato così categorico che PM non osò protestare. In ogni caso, sarebbe colpa tua se domani li raccogliessero dal marciapiede e gli facessero passare una notte al commissariato di polizia per poi rispedirli da questa parte della frontiera, perché è così che trattano la povera gente. Sarebbe colpa tua se io non riuscissi a raggiungerli. Colpa tua se... Afferrò la bottiglia con gesto febbrile, la vuotò bevendo a canna e la scagliò contro una parete. Dopodiché cambiò tono e disse: dovevo avvertirti, non credi? Raggiungiamo i tuoi amici adesso. Penso che sarebbe meglio non tornare là. Io non sono d'accordo. Continuerai a bere? Sì, forse. Perché? Loro non bevono? Non è la stessa cosa. Ma che diavolo stai facendo? PM si era messo a raccogliere i cocci della bottiglia e cercava uno straccio per asciugare la parete. Hai paura di Nora? Ammettilo. Sarebbe meglio se restassimo qui. Resta pure se vuoi. Andrò da solo, anche a piedi se occorre. E vedrai che lì troverò io un modo per mandarle dei soldi a Mildred se non ti sbrighi tu a trovarlo. Sappi che poco fa, se solo avessi voluto, avrei potuto ottenere un buon posto nel Sonora. Tom Pemberton mi ha preso in un angolo e mi ha fatto un sacco di domande. Da quanto ho capito, non gli dispiacerebbe avere uno come me al suo servizio. Hai accettato? Non ancora. Pensi che sarebbe così entusiasta di te se sapesse da dove vieni? Donald riflette un istante. Non lo escludo. Aveva ragione. PM non aveva neppure finito di formulare la domanda che già si rispondeva da solo. Gli abitanti della valle non andavano troppo per il sottile e anzi, nel caso di Certuni, bastava risalire di 2 generazioni per trovare almeno un antenato che ai tempi in cui vigeva ancora la legge della frontiera era stato impiccato da qualche sceriffo, non sempre per errore. Vedi, Pat, è da quando sono qui che mi domando se non sia tu, in fin dei conti, ad avere la mentalità dell'impiegatuccio. Sei diventato ricco, è vero, sei praticamente un loro pari, eppure non sei riuscito a dimenticarti del tutto che vieni da Appleton e che fino all'età di 15 anni hai portato dei pantaloncini ricavati dai calzoni vecchi di nostro padre. Adesso andiamo. Ricordati che Mildred aspetta, che io aspetto, che i bambini aspettano. Era meglio seguirlo, perché altrimenti ci sarebbe andato da solo, come aveva preannunciato.